Egipcia si stromare le ghio, che duerde un orbio, che un zabugao, il che fisse giaga, in persona vittima è, in giustizia è, sola ciuntum, e tamplexum, acciati, oculunque benignum, qui con atus adversario romper spici, risibus inhumanis, felicitatem simulantes, medicamentis que psichiatri ororum praescribunt, ex domo cruciate in domum serum, servisum voluptatum quotidianarum iteratarum. Certa minibus alienis, in ocionibus pro offensis non voluntaris, in vanitatibus que monstra eos faciunt, in voluptatibus que servos eos redunt, sed in me Arvenor tio tiung fabulam, et tu miser.